Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Arriverà il giorno in cui potremo avvicinare lo smartphone al cibo che stiamo per ingurgitare. Questo dopo un'annusatina ci dirà se c'è qualcosa che non va, se il pesce che ci stanno servendo al ristorante non è stato conservato come si conviene o se magari sulla mela che stiamo per addentare sono presenti dei pesticidi di troppo. I sensori chimici in realtà sono ancora poco diffusi nella nostra vita quotidiana, mentre si stanno diffondendo piuttosto rapidamente nel mondo professionale. Da alcuni anni in particolare si stanno sviluppando veri e propri nasi elettronici, cioè sensori in grado di riconoscere un gran numero di molecole presenti nell'aria, di solito anche in piccolissime concentrazioni. Le applicazioni sono numerosissime nel campo della sicurezza, pensate al lavoro che oggi fanno i cani antidroga, nel campo della salute, dell'agroalimentare. Ne parliamo con Francesca Dini, responsabile ricerca e sviluppo di InnoSensor, che è uno spin-off dell'Università di Roma Tor Vergata, i cui soci fondatori sono tutti bene o male professori, ricercatori e dottorandi che hanno lavorato insieme per anni presso il gruppo Sensori. E l'obiettivo primario di questa società è la progettazione e lo sviluppo di sensori e sistemi sensoriali innovativi per diverse specie chimiche. Buonasera Dini. Buonasera. Dunque dottoressa Dini, allora intanto se riesci a spiegarci brevemente e semplicemente naturalmente un po' come funzionano questi nasi elettronici. Sì, i nasi elettronici sono costituiti da una matrice di un gran numero di sensori. Molto ognuno piccola questa matrice, no? Immaginiamo una specie di francobollino, sì. Vero? Beh, dipende, comunque l'area può essere differente, però può essere anche ridotta a un'area molto piccola. E questi sensori hanno delle caratteristiche di sensibilità differenti verso le varie specie chimiche. Quando si fa annusare qualcosa al naso elettronico, si ottiene una risposta del sensore che può essere trasformata in una mappa olfattiva, che tramite degli algoritmi di analisi può essere associata all'odore che si sta all'odore, perché gli odori sono un insieme di molecole diverse. Ognuno di questi sensori, di questa matrice, è specializzato e riconosce delle cose leggermente diverse, quindi, come dire, dal mix che viene fuori, quelli che si sono attivati, quelli che no, voi riuscite a dire, ok, era l'odore di quella roba là. Più o meno. Ok. Sì, sì. Un'altra metafora che possiamo usare è un po' quella di quei giochi a incastro per i bambini, no? Ogni molecola ha una sua forma ben precisa e quindi ci sono tanti sensori con degli incastri diversi sostanzialmente. Esatto, quindi le molecole che si incastrano meglio in un sensore attiveranno maggiormente la risposta di quel sensore. Ok, perfetto. Ecco, senta, il super naso, diciamo così, di cui parlavo un po' all'inizio è molto lontano. Invece se parliamo di applicazioni concrete, che cosa oggi effettivamente si riesce a fare e quali sono i settori quindi in cui si sta più lavorando su questo naso elettronico? Sì, come diceva prima, alcuni dei settori sono proprio quelli dove lavorano i cani, quindi il settore della sicurezza o della rilevazione, per esempio, degli esplosivi negli aeroporti, oppure per la diagnostica medica non invasiva, anzi proprio tutto lo studio nasce dal fatto che i cani sono in grado di sentire le malattie e quindi ci sono delle applicazioni per l'analisi dell'espirato o per l'analisi dell'odore della pelle, che possono essere delle diagnosi per alcune malattie. Un altro campo molto interessante è quello dell'agroalimentare, certo. Dove i nasi elettronici possono essere utilizzati per valutare la qualità dei cibi. Dove già noi usiamo abitualmente il naso, no? Nel senso, tra l'altro, magari non annusiamo le persone per sentire se hanno l'influenza, però quello che mettiamo in bocca di solito un'annusatina gliela diamo. Però in questo modo si ottiene un'analisi più oggettiva rispetto magari a una persona che ha un'analisi più soggettiva. E anche l'analisi dello stato di maturazione della frutta, sì, della verdura è un settore che ha un notevole interesse al momento nei produttori. Sì, per esempio si lavora su degli imballaggi intelligenti che regolano addirittura il livello di maturazione, quindi insomma è una roba sì, molto interessante. A proposito di quello che invece fate voi, proprio nel campo agroalimentare avete un progetto che riguarda i tappi di sughero, ci spiega? Sì. I tappi di sughero sono molto usati per l'imbottigliamento del vino, ma hanno il problema di essere associati al sensore di tappo talvolta, quando il sughero è contaminato con un fungo che provoca la produzione di un composto chimico che si chiama tricloroanisolo. Che è quello che rovina le bottiglie, diciamo, di valore, esatto. Magari dopo un po' di tempo uno le stappa, c'hanno 20 anni, ma in realtà è successa quella cosa e la bottiglia è da buttare. Sì, e ci se ne accorge soltanto una volta aperto il vino, certo. Assaggiato. E quindi noi stiamo cercando di sviluppare un naso elettronico che analizzi tutti i tappi in sughero subito prima dell'imbottigliamento, in modo tale da eliminare quelli che risultano contaminati e rimuovere questo problema della contaminazione del vino con i tappi in sughero. Questo è un progetto già in funzione? A che punto è? È un progetto attivo, ma stiamo ancora lavorando allo sviluppo del prototipo. È un progetto europeo con diversi partner, tra cui c'è il Dipartimento di Chimica dell'Università di Tor Vergata, certo. E poi alcuni partner stranieri in Spagna. Dunque, prima parlavamo di cane, perché insomma è l'animale per antonomasia adottato di grande fiuto. Per arrivare a fare un sensore artificiale che abbia le stesse prestazioni, che cosa ci vorrebbe? Siamo lontani, vero? Siamo lontani, le dico dei numeri per renderci conto: nell'epitelio olfattivo di un cane ci sono centinaia di milioni di recettori olfattivi, mentre noi al momento riusciamo a mettere in una matrice di sensori al massimo un centinaio di sensori, quindi ce n'è da lavorare, insomma. Ancora lei dice. Ce n'è da lavorare, esatto. E questo è anche il motivo per cui, come dire, c'è bisogno di fare tanti nasi diversi specializzati, no? Sì, esattamente. Infatti ogni naso viene realizzato e adattato alla specifica applicazione, proprio perché, a differenza dell'olfatto del cane, non può sentire tutti gli odori. Migliaia di odori diversi. Esatto. Grazie Francesca Dini e buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.